Well, good evening. Buonasera a tutti. Our last meeting together. Questo è il nostro ultimo incontro insieme. Well, for a while. Almeno per un po'. And I just want to say thank you so much for having us. E davvero io vi ringrazio per averci ospitato qui. We have loved being with you. Abbiamo amato ogni singolo momento insieme a voi. Your hospitality is unbelievable. La vostra ospitalità è qualcosa di straordinario. And I have not been kissed so much since the last time I was here. E non sono mai stato baciato così tante volte come negli ultimi due giorni. It's amazing. È veramente incredibile. And it's wonderful what God is doing here. Ed è meraviglioso vedere quello che Dio sta facendo nel nostro mezzo. But nothing is perfect. Ma niente è perfetto. And there is one area which is very disappointing. E c'è un'area che veramente mi ha molto deluso, è deludente. This morning I talked about Benne from IKEA. Questa mattina vi ho raccontato di Ben, il ragazzo IKEA. And how he is looking for an Italian lady. E di come lui sta cercando questa fidanzata italiana. I asked for volunteers. Ho chiesto per qualche volontaria. Nobody. Nessuna è venuta. This afternoon I found him weeping. E questo pomeriggio l'ho trovato che stava piangendo. We went to Germany. Siamo andati in Germania. I asked for volunteers. Ho chiesto per delle volontarie anche lì. Nobody. E nessuna si è presentata. We went to Cyprus. Siamo andati a Cipro. I asked for volunteers. Ho chiesto per qualche volontaria lì. Nobody. E nessuna. There must be somebody. There must be some lady with a heart of compassion. Ci deve essere qualcuno, ci deve essere una ragazza compassionevole. I tried my best. Ho provato del mio meglio. Those of you weren't there this morning, do not worry. Per chi non c'era questa mattina, non vi preoccupate. I'm playing. Sto giocando. I want to look tonight. It's very simple tonight. Questa sera condividerò qualcosa di molto semplice. At God's love. E voglio guardare all'amore di Dio. We know he loves the world. Noi sappiamo che lui ama il mondo. We know he loves everyone. Sappiamo che lui ama ognuno di noi. But I keep meeting Christians who aren't quite so sure that he loves me. Ma continuo a conoscere tanti cristiani che non sono proprio sicuri di essere amati individualmente, che ama me. Or if they believe in theory that he loves them, the question is, maybe he loves me, but I'm not sure if he really likes me. E forse ci credono in teoria che Gesù ci ama e ama tutti, ma loro pensano ok, forse Dio mi ama, ma non lo so se a lui piaccio abbastanza. And I just want to look at some stories from the Gospels. E voglio vedere con voi diverse storie dai Vangeli. And so often in, before I say that, I'll just say this. Ok, prima di incominciare voglio dire questo. A few years ago, qualche anno fa, some other Christian leaders came to see me. Qualche altro leader cristiano venne per vedermi, per incontrarmi. And they said, "Mike, we want to take you for coffee." E mi hanno detto, "Mike, ti vogliamo portare a prendere un caffè." And whenever a Christian leader says they want to take you for coffee, you know you are in trouble. E quando sempre un leader della chiesa ti chiede di andare a prendere un caffè, lo sai che sei un po' nei guai. And we talked about nothing very much. E abbiamo parlato un po' del più e del meno. And then they looked at each other. E poi ad un certo punto si sono guardati tra di loro. And I thought, here we go. E ho pensato, ok, ci siamo. And they said, Mike, we're worried about you. E ci hanno detto, Mike, noi siamo preoccupati per te. We are worried that you seem to accept every invitation. Siamo preoccupati perché sembra che tu accetti qualsiasi tipo di invito. Whoever invites you to speak, you go. Chiunque ti invita a predicare, tu prendi e vai. And you're not very strategic. E non sei molto strategico. And at your age, you need to be more strategic. E alla tua età, tu hai bisogno di essere un po' più strategico. You need to start going only to the important places. Devi incominciare ad andare solo in quei posti molto riconosciuti, importanti. You need to speak to leaders, to the movers and the shakers. Devi parlare a quei leader che sono tra i più influenti. Don't waste your time with those in the provinces. Non perdere tempo con i leader e i pastori che abitano nei villaggi, nelle province. And sometimes you go and you speak to very small groups. Certe volte tu vai e ti ritrovi a parlare a gruppi molto piccoli. That is not strategic. Quello no, non è strategico. And then they told me about one Christian leader who, whenever he had an invitation, the first question he asked was, "How many will be there?" E poi mi hanno raccontato di un leader che ogni volta che riceveva un invito per predicare, la prima domanda che faceva è: quante persone ci saranno a questo evento? And if the answer was less than 1,000, he would say no. E se la risposta era meno di un migliaio, lui non accettava l'invito. And they said, "Mike, you should do that." E mi hanno detto: "Mike, tu dovresti fare così." And I thought, they're right. E ho pensato, ma hanno ragione. I must be strategic. Devo essere più strategico. I must go only to the important people. Devo incominciare ad andare solo dove ci sono le persone importanti. And not waste my time with ordinary people. E smetterla di perdere il mio tempo con queste persone ordinarie. And then I got an invitation. E poi ho ricevuto questo invito. To speak at a huge gathering in California. Per andare a parlare in questa grande conferenza in California. They told me there would be 30,000 people. Mi hanno detto che lì ci sarebbero state 30,000 persone. In a site just outside San Francisco. In un posto fuori da San Francisco. And I thought, it's California. E ho pensato, ok, è in California. And it's 30,000 people. E ci saranno 30,000 persone. That is really strategic. Quello sì che è strategico. They need me. E loro hanno bisogno di me. So I said yes. E quindi ho accettato l'invito. And I went and I took my friend Andy. E quindi sono andato con il mio amico Andy. Who I told you about. Last night. Di cui vi ho raccontato ieri. And we went there and there were 30,000 people. E quindi siamo andati e davvero c'erano 30,000 persone. And the main meetings were in the open air and you couldn't even see the people at the back, they were so far away. E le sessioni principali erano all'aperto e tu non potevi neanche vedere dove finivano le persone per quante ne erano. And I was going to be the speaker for all 30,000 that night. E quindi io ero il predicatore per queste 30,000 persone quella sera. But in the morning they asked me to do a seminar. Ma la mattina poi mi hanno chiesto di fare un seminario. Only for a few hundred. Solo per qualche centinaia di persone. Hardly worth my time. Ma non so se veramente valeva la pena. But I went there. E però sono andato. And I sat in the front row with my friend Andy. E mi sono seduto in prima fila con il mio amico Andy. And then this man got up and he introduced me. E ad un certo punto questo uomo si alza e mi presenta. And he said this. E dice questo. We are so privileged. Noi siamo così privilegiati. To have the man who is to speak to us now. Di avere quest'uomo che starà per condividere un messaggio con noi. He is an international icon. Lui proprio un'icona internazionale. He is so anointed. Lui è così unto. What he has done is amazing. Quello che ha fatto è straordinario. And then he actually, I promise you, he said this. E veramente ha detto questo poi. He said, "I suppose if you wrote this man's achievements on a scroll, the scroll would never come to an end." E ha detto: se dovessimo scrivere tutte le cose belle e i successi che lui ha avuto su una pergamena, questa pergamena non avrebbe fine, sarebbe così lunga. And Andy turned to me. E poi si è rivolto a me. And he went like this. E si ha incominciato a ridere. And I thought, who is this person? E ha detto, e io ho detto, ma chi è, di chi sta parlando? And he was talking about me. E lui stava parlando di me. And the rest of the whole afternoon, I kept thinking, if you wrote my achievements on a scroll, it would never come to an end. E per tutto il pomeriggio non facevo altro che pensare alle parole. Se si dovessero scrivere tutti i miei successi, la lista non avrebbe fine. I have become a minor Christian celebrity. Io adesso sono diventato una delle celebrità cristiane maggiori. And I went round waving at everybody. E quindi andavo in giro così, salutando come la regina. As Her Majesty would. Come proprio la regina. And then the evening came. E poi si fece sera. And they had a band playing as the warm-up. E c'era il team di lode adorazione che come riscaldamento stava guidando il momento di lode. And I was the main event. Perché io ero l'evento principale. And I kept thinking, I just enjoyed it, the thought that they all thought that if you wrote my achievements on a scroll, it would never come to an end. E proprio mi piaceva il pensiero che tutti quelli che mi stavano dinanzi stavano pensando che se si scrivessero i miei successi sulla lista, la lista non avrebbe fine. They introduced me. E quindi poi mi hanno presentato. I came forward. E così ho avanzato. I began to speak. Ho incominciato a parlare. The anointed man of God. L'unto di Dio. And as I began to speak, e appena ho incominciato a parlare, a quarter of them got up and went to all the burger vans on the side. Un quarto delle persone si sono alzate e sono andate fuori al lato. And another quarter got up. And they went to all the mobile toilets on the left. E poi un altro quarto si alza ed esce, va dove c'erano i telefonini. And after a few minutes, i banner. Yeah, after a few minutes, the rest of them started talking to each other. E dopo un po' di minuti, il resto, il rimanente delle persone, incominciano a parlare tra di loro. I tried to tell my best stories. E lì stavo cercando di raccontare le mie storie migliori. But no one laughed. Ma nessuno rideva. No one was listening. Nessuno mi stava ascoltando. I lost confidence. E quindi ho incominciato ad essere meno sicuro di me stesso. I couldn't think what to say next. Non riuscivo a capire che cosa avrei potuto dire. And I noticed there was these older ladies on the side. They started praying for me. E ho visto questo gruppo di vecchiette che hanno incominciato a pregare per me. And then I knew I was in big trouble. E allora sì che mi sono reso conto di essere nei guai. And after half an hour, e dopo 30 minuti, my brain froze. Ho avuto un vuoto mentale. I didn't know what else to say. Cioè non sapevo più che cos'altro dovevo dire. So I just looked at them. E quindi ho guardato. And I said, bye bye. E ho detto, ciao ciao. And I walked off. E me ne sono andato via. And do you know, usually when you go and speak places, even if you don't do very well, your host says, thank you for coming. E sapete, quando vai fuori per degli eventi a predicare, anche se non va proprio bene bene, chi ti ospita comunque sai, ti ringrazia, ti dice grazie per quello che hai fatto. As I walked off, none of them would look at me. Ma non in questo caso, io sono andato via e nessuno mi ha degnato di uno sguardo. And I went to the back of the stage where my friend Andy was. Quindi sono andato poi dietro il palco dove c'era il mio amico Andy. And I said, tell me the truth. E gli ho detto, dimmi la verità. Was that as bad as I thought it was? È andata così male come penso sia andata? He said, yes. E lui mi ha risposto, sì. I said, let's go the long way round to the car. E gli ho detto, ok, prendiamo una via secondaria per la macchina. Let's leave. andiamocene. I don't want anyone to see me. Non voglio che nessuno mi veda. And we walked about 30 minutes to the car. E quindi ci abbiamo messo 30 minuti per arrivare alla macchina. We got in and we drove away in silence. Ci siamo messi in macchina e abbiamo incominciato a guidare in silenzio. No one even spoke to me. Nessuno mi ha rivolto la parola. And then after about an hour's driving, e dopo un'oretta di viaggio, I started laughing. Ho cominciato a ridere. Because I realized what God did. Perché mi sono reso conto di quello che Dio aveva appena fatto. You see, I started to enjoy the fact that people thought that if you wrote my achievements on a scroll, it would never come to an end. Perché ho incominciato a dare troppa importanza al fatto che le persone potessero pensare che se i miei successi fossero scritti su una lista, la lista sarebbe infinita. And at the end of that evening, I knew that there were 30,000 people who thought, "Who on earth was that?" E alla fine di quella serata, tutto quello che sapevo è che quelle persone avevano pensato: ma chi è questo? Che cosa ha fatto? And you know, after that, I started thinking about the advice I was given to be strategic. E sapete, dopo quell'evento ho incominciato a pensare al consiglio che avevo ricevuto sul fatto di essere più strategico. And I thought, poor Jesus. E ho pensato, povero Gesù. He had nobody to give him that advice. Non ha avuto nessuno che le ha dato questo consiglio, che gli poteva dare questi consigli. He had no public relations consultant. Lui non aveva chi poteva dargli dei consigli sulle pubbliche relazioni. And as I thought about Jesus in the Gospels, e quando pensavo poi a Gesù nei Vangeli, I thought, oh no. Ho pensato, oh no. He was so unstrategic. Lui è stato così poco strategico. He wasted his time on anybody. Lui ha perso il suo tempo dandolo a chiunque. He just spent his time with a few. Lui ha trascorso il suo tempo con pochi. And whenever he managed to get a crowd together, he would say, "Let's go." E ogni volta che si formava la folla attorno a lui diceva: "Andiamo via." Jesus, how do you build a ministry like that? Ma Gesù, come hai fatto ad edificare un ministero così, comportandoti così? And even worse than that. E ancora peggio. Do you know what Jesus did? Sapete quello che Gesù ha fatto? He often sacrificed ministry to the crowds in order to spend time with the one. Lui spesso ha sacrificato il tempo che poteva dedicare alle folle per dedicarlo all'individuo. There was the time in John chapter 4 when he was going through Samaria. In Giovanni al capitolo 4 lo ricordiamo, lui stava andando e stava attraversando la Samaria. And there was a town there called Sychar. E c'era una città lì chiamata Sychar. And do you know what Jesus did? E sapete quello che Gesù ha fatto? Instead of going into the middle of the town and having a Jesus Christ miracle healing crusade, invece di andare al centro della città e organizzare questa crociata per le moltitudini di salvezza e guarigione, he stayed outside the town. Lui è rimasto fuori da quella città. Sitting at a well. Seduto vicino a un pozzo, waiting for one woman, aspettando per una donna. And he sent the disciples into town. E lui ha mandato i discepoli in città. So he could be alone. Così che lui potesse essere da solo con quella donna. And this one woman comes. E poi la donna arriva. And the first thing that was wrong with her, e la prima cosa che non andava, was she was a Samaritan. È che lei era una samaritana. I mean, Jewish people did not associate with Samaritans. E i giudei non volevano avere nulla a che fare con i samaritani. Well, not the good ones anyway. Non i giudei, quelli bravi. And secondly, she was a woman. E poi era pure una donna. In that culture, women were second-class citizens. E in quella cultura le donne facevano parte dei cittadini di seconda classe. And a good Jewish man would never start a conversation with a woman when they were on their own. E un giudeo di buona reputazione mai avrebbe intavolato una conversazione con una donna mentre era da sola. But there was something else that it was even worse. Ma c'è ancora di più. This is what happened. Ancora peggio. Questo è quello che è successo. She is there drawing water. Lei è lì che raccoglieva l'acqua. And Jesus starts to talk to her. E Gesù incomincia a parlarle. And do you know how he begins the conversation? E sapete come incomincia la conversazione? He doesn't say, "Have you thought of your eternal destiny?" Lui non le chiede, hai pensato al tuo destino eterno? He doesn't say, "Have you heard of the four spiritual laws?" Non le chiede riguardo le leggi spirituali. He doesn't say, "Have you been washed in my blood?" Lui non le chiede, sei stato lavato dal mio sangue? Do you know what he says? Sapete quello che dice? He says, "Can I have a drink of water, please?" Lui le dice, posso avere un sorso d'acqua? Do you know what is amazing about that? Sapete quello che è straordinario? He begins where she is and not where he is. Lui incomincia dal punto in cui lei si trova e non dal punto in cui lui è. She is there because she is interested in water. Lei è lì perché il suo interesse è nell'acqua. Her need is water. Il suo bisogno è l'acqua. And not her eternal destiny. E non il suo destino eterno. So they have a conversation. E quindi hanno una conversazione. And then Jesus says, "This is a very interesting conversation we're having about water." E Gesù dice, questa è proprio una interessante conversazione che stiamo avendo sull'acqua. "Why don't you go into town and bring your husband and the three of us can continue the discussion?" Perché non vai in città e chiedi a tuo marito di venire, così possiamo discutere tutte e tre su questo fatto. And then she thinks, "Oh no." E lei poi pensa, no. "This is the first man for a long time who has treated me as a human being." Questo è il primo uomo che dopo tanto tempo mi ha trattato come un essere umano. "It must be because he doesn't know my story." Forse perché lui non conosce la mia storia. And in her shame she told a half truth which is really a lie. E nella sua vergogna lei racconta a Gesù una mezza verità che in realtà è una bugia. And then Jesus has a prophetic word and reveals her secret sin. E poi Gesù ha una parola profetica che rivela la sua realtà, la verità. I love it when secret sin is revealed in the church. E mi piace il mio peccato segreto è rivelato in chiesa. We may do a bit of that later on. Forse faremo qualcosa del genere più in là nella serata. I'm joking. No, sto scherzando. And here's how he reveals her sin. E questo è come lui rivela il peccato della donna. He says, "You are right when you say you have no husband." E le dice, tu hai ragione quando dici che non hai un marito. "You have had five husbands." Perché in effetti ne hai avuti cinque. "And the man you are now living with is not your husband." E l'uomo con il quale vivi adesso non è tuo marito. "You are quite right in what you say." Quindi in quello che mi hai detto hai ragione. Now I'm just going to say it again and exaggerate it a little bit. Ok, dirò da capo questa storia e la esagero un tantino. "You are right when you say you have no husband." Tu hai ragione quando dici che non hai un marito. "Put a tick by the no husband answer." Metto un check alla risposta non ho un marito. "You have had five husbands, which is a little more than the quota allowed." Tu hai avuto infatti cinque mariti, che è un tantino di più di quello che in realtà è permesso. "And the man you're now living with is not your husband. You are quite right in what you say." E la persona con la quale vivi non è tuo marito. Tu hai proprio ragione in quello che stai dicendo. "And this sinful Samaritan woman stood there and thought, I got it right." E la peccatrice samaritana lì ha pensato, ah, ho ragione. Now don't misunderstand me. Ora, non fraintendetemi. God hates sin. Perché Dio odia il peccato. Sin bad, bad sin. Il peccato, cosa brutta, brutta. But as much as he hates sin, he loves sinful people. Ma lui odia il peccato tanto quanto ama i peccatori. He adores bad people. Lui adora le persone cattive, peccatrici. That's how I got in. Perché è così che io mi ritrovo qui. Isn't that how you got in? Non vale lo stesso per te. And only Jesus manages to reveal sin and still affirm the sinner. E solo Gesù è in grado di rivelare il peccato e di non ammazzare il peccatore. And this woman became the first ever evangelist to Jesus. E questa donna è diventata poi la prima evangelista del Vangelo di Gesù. And she went into town and she said to everyone, "Come and meet a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" Lei ritorna nella città e dice a tutti, venite con me, ho incontrato un uomo che ha detto tutto che riguardava la mia vita, non potrebbe lui essere il Messia? And they came out of the town because of one sinful woman. E le persone accorsero dalla città grazie a una donna peccatrice. And they believed. E loro credettero. There's a story in Mark chapter 5. C'è una storia in Marco al capitolo 5. Jesus is walking along and there is a crowd all around him. Gesù sta camminando da solo e in realtà c'è una folla tutta che lo attorna. And there is one woman who had been bleeding for 12 years. E c'è una donna che sanguinava da anni e anni. It meant she was ceremonially unclean. E questo vuol dire che lei era reputata una impura. She should not have been out of the house. Lei non avrebbe dovuto lasciare casa sua, non poteva lasciare la casa sua. Because according to Jewish law, if someone who is unclean touches someone who is clean, they make them unclean. Perché secondo la legge giudaica, se qualcuno che è puro tocca un impuro, la sua impurezza lo intacca. But she was desperate. Ma lei era disperata. And she went through the crowd. E quindi si è fatta spazio tra la folla. And she thought, if I can just touch him. E ha pensato, se solo riesco a toccarlo. And she touched him. E poi lei ha toccato Gesù. And he suddenly stopped. E Gesù tutto ad un tratto si ferma. And he said, "Who just touched me?" E chiede, chi mi ha toccato appena adesso? And the disciples were saying, "Oh, come on, Jesus. We're in the middle of a crowd." E i discepoli che gli dicono, "Coraggio, Gesù, siamo nel mezzo di una folla." Everybody's touching you. E tutti ti stanno toccando. We're all squashed together. E siamo tutti qui stretti. And I bet the disciples said, "Jesus is joking." E magari i discepoli si dicevano tra loro, "Ma starà facendo qualche battuta, Gesù." But he wasn't joking. Ma no, non stava scherzando. He said, "No, I felt power go from me. Who touched me?" No, ho sentito una potenza uscire da me. Chi mi ha toccato? And the crowd parted. E quindi la folla poi si è aperta. And this one unclean woman said, "I did." E questa donna impura dice, "Sono stata io." And she was made clean. E lei è stata resa pura. He felt the touch of the one broken woman in the whole crowd. Nel bel mezzo della folla, Gesù ha sentito il tocco di quella donna che aveva bisogno di lui. And where Jewish law said that if someone who is unclean touches someone who is clean, they make the clean person unclean. E mentre la legge giudaica dice che quando uno impuro tocca una persona pura e la rende di conseguenza impura, with Jesus, it's the other way around. Con Gesù è esattamente l'opposto. When we who are unclean touch Jesus who is clean, he makes us clean. Quando noi che siamo impuri tocchiamo Gesù che è puro, noi siamo resi puri da lui. Then there's the time that Jesus is walking through Jericho. c'è stata questa volta e Gesù stava camminando nella città a Gerico. And there's this little man called Zach. E c'è questo piccolo uomo che si chiama Zach. He is a chief tax collector. Sì, lo so, Zaccheo. Zaccheus. Zaccheo. E lui era il capo degli esattori delle tasse. That means he's a chief traitor to Israel. Questo vuol dire che era un uomo non ben visto da Israele. And he went up the tree. E lui si è arrampicato sull'albero. In order to see Jesus. Così che potesse vedere Gesù. And on ground level was all the important people. E tutti per terra, cioè in piedi per terra, c'erano tutte le persone più importanti. The mayor, the chief of police. Il sindaco, il capitano della polizia. And who does Jesus notice? E chi Gesù nota? The little guy up the tree. L'uomo sull'albero. And everyone is horrified. E tutti quanti sono schifati da questo. We don't talk to him. No, noi non parliamo con lui. He steals our money. Perché lui è un ladro, ci ruba i soldi. And you know what Jesus does? E Gesù che cosa fa? He says, Zach, come down. Lui dice, Zaccheo, vieni giù. I'm gonna spend the night at your house. Io trascorrerò la sera a casa tua. Wow. Wow. He notices the one outcast in the crowd. Lui nota la persona emarginata tra la folla. And my favorite story. E questa è la mia storia preferita. Is also in Mark chapter 5. Ed è anche la troviamo in Marco al capitolo 5. Jesus goes to the region of the Gerasenes. Gesù va nella regione dei Jebusei. The region of Jebusei. Mm-hmm. And there's a crowd gathers. E qui c'è anche qui una folla che si riunisce. And it looks like this is going to be a good meeting. E sembra proprio che un buon incontro stava per incominciare. And then this crazy guy comes. E questo uomo pazzo si avvicina. This mad guy. Lui è proprio matto. He is completely naked. Ed è totalmente nudo. Not even boxers. Non ha neanche le mutande. I mean nothing. Nudo. And he's in chains and he breaks the chains. E lui è incatenato e spezza le catene. And he cuts himself. E lui si taglia anche. And he's screaming. E grida. Ah! Ah! And he's screaming. Ah! E lui sta gridando. And I don't have the voice. Ah! And he's living in the tombs. E lui vive nei sepolcri. That means he's living with dead people. Questo vuol dire che lui vive con le persone morte. And more than that, e ancora di più, he has a legion of demons. Lui ha una legione di demoni dentro. That's a lot of demons. E si tratta di tanti demoni. And he stops the meeting. E quindi Gesù ferma l'incontro. And he's doing all of this. E lui sta facendo questo uomo matto tutto questo. Now just to understand, imagine if right now as I am speaking. Ora giusto per capire un po' meglio, immaginate che mentre io adesso sto parlando, a crazy guy walks in. Un uomo pazzo entra in chiesa. And he is completely naked. E lui è totalmente nudo. I mean, nothing. Niente. Nothing. Zero. And he's screaming. Ah! E sta gridando. Ah! And he's breaking chains. E sta rompendo le catene. And he's been living with dead people. E si sa che lui vive al cimitero con le persone morte. And he has a legion of demons. E ha dentro di lui una legione di demoni. If that were to happen. Se questo succedesse. Do you know what I would do? Sapete cosa io farei? I would look at Pastor Marco. Guarderei il pastore Mirko. I would look like this. Lo guarderei così. And then he would look at some of the bigger men in the church. E poi lui lancerebbe uno sguardo a tutti gli uomini un tantino più di stazza. And they would go up to him. E loro andrebbero da lui. And they would say, "Excuse us, sir." E andrebbero da questo uomo e direbbero scusi signore. But would you just come outside with us? Potresti seguirci fuori? We'd like to have a little private conversation. Perché with vorremmo you. Parlare con te in maniera privata. And then they would take him round the back. E quindi poi l'avrebbero portato dietro l'angolo. And they would beat him up. E avrebbero fatto a pugni con lui. Because that's what we do in church, who people who disturb. Perché questo è quello che noi facciamo in chiesa con le persone che sono un po' di disturbo. It's the pastor's secret. Queste sono, quello è il segreto dei pastori. Do you know what Jesus did? Ma invece sapete quello che Gesù ha fatto? It's amazing. È incredibile. He stopped the whole meeting. Lui ha fermato l'intero incontro. For this one crazy guy. Per questo pazzo. Per and he started to talk to him. E ha incominciato a parlare con lui. And he saw he was tormented by demons. E ha visto che quest'uomo era tormentato da demoni. And he cast the demons into the herd of pigs. E lui ha scacciato i demoni facendoli andare nei maiali. And there were 2,000 pigs. E lì c'erano 2,000 maiali. And the crowd, they watched all their pigs running down the hill. E la folla ha visto tutti questi maiali scendere dalla a valle. Running into the Sea of Galilee. Buttarsi nel mare della Galilea. And they watched their property bobbing away in the water. E quindi hanno visto proprio le loro la loro proprietà galleggiare sull'acqua. Some of them came to Jesus after. Alcuni di loro dopo sono andati a Gesù. And they said, "Excuse us, Mr. Christ." E hanno detto, scusi, signor Gesù. But thank you for coming. Grazie per essere venuto. But could you get back into your boat? Ma puoi ritornartene sulla tua barca? And go away and leave us alone. E andartene e lasciarci in pace. Because he just ruined the economy of the region of the Gerasenes. Perché con quell'atto lui aveva rovinato tutta l'economia di quella città. For one crazy man. Tutto per un uomo pazzo. That was barbecue for years going away. Quella è stata la carne del barbecue che di anni che è sparita in un istante. House prices were dropping in the region of the Gerasenes. In quella regione il prezzo della carne sarebbe salito alle stelle. Jesus sacrificed a whole ministry trip for one man. Gesù ha sacrificato tutto un viaggio del ministero per un uomo. And then they said to him, "Please leave." E quindi poi le hanno detto, vattene via. And then we read in verse 18. E poi leggiamo nel verso 18. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon possessed begged to go with him. Come egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Ah, that's what Jesus was doing. Ah, questo è quello che Gesù stava facendo. He did that so he could take this man. Lui ha fatto tutto questo così che potesse prendere And this man, in the following days, before Jesus ministered, he would give his testimony. Così che questo uomo nei giorni successivi avrebbe potuto dare la sua testimonianza durante il ministero di Gesù. Just imagine again if this crazy came in. Immagina da capo se questo uomo matto venisse. Naked. Nudo. Legion of demons. Una legione di demoni. And I stop the meeting. E io fermo l'incontro. And I cast the demons out. E caccio via I demoni. And I put them into a herd of AC Milan supporters. E li mando tutti nel club del Milan. Manchester United. Perché io tifo Manchester United. And then tomorrow I took him to a shop. E poi domani lo porto quest'uomo in un negozio. And I bought him clothes. E gli compro dei vestiti. And I had gave him a haircut. E lo porto anche dal parrucchiere. And I bought him a tie. E gli compro una bella cravatta. And then on Tuesday we go to South Africa. E poi martedì andiamo in Sudafrica. And then I take him with me to South Africa. E lo porto con me in Sudafrica. And before I speak, he comes on. E prima che io incominci a predicare, lui sale sul palco. And he says, "Ladies and gentlemen." E lui dice, signore e signore. Just a few days ago. Giusto qualche giorno fa. In Bari. A Bari. I was crazy. Io ero un uomo matto. I wandered around completely naked. Andavo girando completamente nudo. I would scream, ah! E gridavo in continuazione. I had so many demons I couldn't count them. Avevo così tanti demoni dentro che erano innumerevoli. But the man who is about to speak to you. Ma la persona che vi sta per che sta per predicare. Delivered me of my demons. Mi ha liberato da questi demoni. Made me sane. Mi ha risanato. Dressed me. Mi ha dato dei vestiti. What he did for me, he could do for you. Quello che lui ha fatto per me lo può fare anche per voi. Ladies and gentlemen. Signore e signori. Would you welcome? Potete dare il benvenuto. Mr. Mike Pilavacci. Al signor Mike Pilavacci. And then, as I walked onto the stage. E poi io andando sullo stage, sul palco. There would be a hush in the audience. Ci sarà un'offerta. People would be saying, "Wow." E le persone sono lì che dicono wow. Some people would be thinking, if only I could touch him. E le persone che pensano, ma se solo potessi toccarlo. And some of them would be thinking, I bet if we wrote his achievements on a scroll, it would never come to an end. E qualcuno magari penserebbe anche, scommetto che se si scrivessero tutti i suoi successi su una lista, questa lista sarebbe infinita. Maybe that's what Jesus was doing. Forse qui Gesù quello che stava facendo. Listen to this. Vediamo, sentiamo. Jesus did not let him, but said, "Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you." Verso 19, Gesù non glielo permise, ma gli disse, "Va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te." Jesus said, "I'm not going to use you." Gesù ha detto, io non mi servirò di te. I'm not going to use you. Non ti userò per quello che è successo. Go back to your family. Vai dalla tua famiglia. Go back to your family. Vai dai tuoi. Can you imagine his family? Poi potete immaginare la sua famiglia. That man's parents thinking, "Where did we go wrong?" Quella madre che pensa, ma io che cosa ho fatto di sbagliato? His wife lying in bed and hearing him screaming in the hills. O la moglie di questo marito che a letto lo sente gridare in continuazione. His children humiliated as their friends said to them, "We saw your dad completely naked." I suoi amici, i suoi figli che sono derisi dagli amici quando gli dicono, "Abbiamo visto tuo padre che stava correndo completamente nudo per la strada." He ruined a whole meeting for one man. Gesù ha rovinato l'intero incontro per un uomo. I come into land with this. E voglio concludere con questo. Jesus did not only did that. Gesù non ha fatto solo questo. He told stories about it. Ma lui ha raccontato. In Luke's gospel. Ha raccontato la storia in Luca. You know, in those days they didn't have cinema, they didn't have TV. Sapete che a quell'epoca non c'erano i cinema, non c'era la televisione. So they entertained each other by telling stories. E quindi loro si intrattenevano raccontandosi delle storie. And Jesus was a great storyteller. E a Gesù piaceva tanto ed era bravo a raccontare le storie. His stories were really good. Perché le sue storie erano veramente belle da sentire. And in Luke 15. E in Luca al capitolo 15 the Pharisees were complaining that Jesus was spending time with the wrong sort of people. I farisei si stavano lamentando del fatto che Gesù spendesse troppo tempo con le persone sbagliate. So Jesus said, "Let me tell you a story." E quindi Gesù ha detto, "Lasciate che vi racconti questa storia." And I bet the disciples were saying, "Hey, come on everyone, he's going to tell a story." E mi immagino i discepoli che si dicono, "Ehi, venite, venite che lui sta per raccontare questa storia." His stories are really good. E le sue storie sono veramente grandiose. Gather round. Venite. And then Jesus said, e Gesù poi ha detto, "One day there was a shepherd." Un giorno c'era un pastore. Oh, it's a shepherd's story. Ah, I like no, those. È la storia sul pastore. And this shepherd had 100 sheep. E questo pastore aveva 100 pecore. 100 sheep. This is a rich shepherd story. 100 pecore. Questa è la storia di un pastore ricco. And then one day, one of this shepherd's sheep got lost. E poi un giorno una di queste pecore si è persa. Oh, this is a tragedy story. Oh, questa è una storia tragica. And then Jesus says, and the shepherd left the 99 and he looked for the one. E Gesù poi dice, e il pastore ha lasciato le 99 per andare a trovare quella persa. And when he found the one, he brought it home rejoicing. E quando ha trovato la pecora perduta, l'ha portato a casa e ne ha gioito. 2000 years later, 2000 anni dopo, this is how we hear the story that Jesus told. Questo è come noi sentiamo questa storia. One of the shepherd's sheep got lost. Una delle pecore del pastore si è persa. So Jesus left the 99 with his friendly next door neighbor shepherd to look after them for him. E quindi Gesù ha lasciato le 99 per andare con i suoi vicini a trovare quella persa. And put them to bed. E poi l'ha messa a dormire. And the shepherd went, and when he found the one lost sheep, he brought it home and he said, "Look, 99, your brother is here." E poi quando questo pastore ha trovato quella pecora perduta, la porta a casa e dice alle 99, "Guardate pecorelle, vostro fratello è ritornato." But you know, if that's the story Jesus told, ma sapete, se fosse questa la storia che Gesù ha raccontato, to be honest, onestamente, it's not a very good story. Non è questa grande storia. What's good about that? Cioè, che c'è di buono di questa storia? That's what you would expect. È quello che tutti quanti noi ci aspettiamo. That's not the story Jesus told. Ma questa non è la storia che ha raccontato veramente Gesù. He said, one of this shepherd's 100 sheep got lost. Ha detto, una di queste 100 pecore di questo pastore si è persa. And the shepherd left the 99 on their own on the hillside. E il pastore ha lasciato le 99 pecore sulla collina da sole. Where they would get lost. Dove loro si sarebbero potute perdere. And he went looking for the one. E lui è andato a trovare, a cercare quella che si era persa. And when he found the one who was lost, even though he lost the 99, he was rejoicing. E quindi anche quando ha trovato quell'unica pecora che si era persa, nonostante avesse perso gli altri 99, ancora ne gioisce. Now the listeners would have been thinking, This is a stupid shepherd story. Ora, gli ascoltatori a questo punto penserebbero, ma questa è proprio una storia stupida di questo pastore. This shepherd is gonna get fired. Questo pastore sicuramente perde il lavoro. And do you know what Jesus then does? E sapete cosa Gesù fa poi? He says to them, lui dice, God is like that shepherd. Dio è proprio come quel pastore. You see, he uses a rabbinical device called hyperbole, exaggeration. Lui usa questa figura retorica che si chiama iperbole, che è una esagerazione. In order to make the point. Così che possa comunicare bene il succo. He looks for the one. Lui ha i suoi occhi sulla persona, sull'uno. And do you notice the common denominator? E tu possiamo vedere il comune denominatore. Each one of those was broken. Ognuna di queste persone era ferita, soffriva. Each one of them was an outcast. Ognuna di queste persone era un'emarginata. God loves the world one human being at a time. Dio ama il mondo una persona alla volta. And he calls us to do that. E lui ci chiama a fare altrettanto. This is a very nice story about Jesus. Questa è una bellissima storia di Gesù. Except Jesus says you do the same. Ma Gesù ci dice di fare lo stesso. And you know what? E sapete cosa? Many of us struggle to believe that he loves us uniquely. Molti di noi hanno difficoltà a credere che lui ci ama in quanto persona unica, singolare. I keep meeting Christians who believe it in their head but don't believe it in their heart. Io incontro sempre credenti che credono questo nella loro mente, ma non profondamente nel cuore. I come into land with this story. E voglio concludere con questa storia. I think I might have told this story two years ago. Forse ho condiviso questa storia già 2 anni fa. But it's a story that will stay with me the rest of my life, so ma I'm going to say it again. È una storia che rimarrà nel mio cuore per il resto della mia vita, quindi la voglio condividere da capo. About 3 years ago, circa 3 anni fa, we were at our Soul Survivor camp. Eravamo al nostro campeggio di Soul Survivors. And that week there were 8,000 young people in the tent. E quella settimana c'erano 8,000 persone nella tenda. And the night before, 200 came forward to give their lives to Jesus for the first time. E il giorno prima 200 persone, 200 ragazzi sono venuti a conversione, hanno accettato Gesù. And we were rejoicing because 200 had become Christians the night before. E noi eravamo pieni di gioia perché 200 ragazzi avevano accettato Gesù. And the next night I was about to speak. E la serata successiva io stavo per predicare. And as the worship was ending, God spoke to me. E alla fine del tempo di adorazione, Dio mi ha parlato. And he said, there is someone here who doesn't know me. His friend invited him. And this afternoon, he said to his friend, if they invite people to become Christians this evening, I might go forward. Mi ha detto, c'è qualcuno qui che non crede in me, che è stato invitato, e questo pomeriggio lui ha detto, questa persona ha detto, se ci sarà un invito alla salvezza, allora io molto probabilmente risponderò a questo invito. And the Lord said to me, his name is Sam. E il Signore mi ha detto, questo ragazzo si chiama Sam. O Samuel. O Samuele. And I thought, okay, I will preach, and then at the end I'll say, by the way, if there's anyone who didn't become a Christian last night and you're ready tonight, why don't you come forward? And there might be someone called Sam, you said to your friend this afternoon, you might come forward, why don't you come as well? E quindi ho pensato, ok, alla fine della mia predicazione farò questo invito e dirò, ok, se c'è qualcuno che ieri non ha accettato Gesù ma oggi lo vuoi fare, forse ti chiami Sam, e proprio questo pomeriggio hai detto, se ci sarà questo invito alla salvezza, io risponderò. And the Lord said to me, no, I want you to do it now. Ma il Signore mi ha detto, no, io voglio che tu adesso lo faccia. And I said, Lord, that's not a good idea. E gli ho detto, Signore, no, questa non è proprio una bella idea. What if I say that and nobody comes forward? Che succede se magari dico questo e nessuno risponde, nessuno viene avanti? What if I got it wrong and there's no Sam? Che succede se questo Sam non esiste, che io ho capito male? And what if there is a Sam and this non-Christian doesn't want to walk forward in front of 8,000 strangers? E che cosa succederebbe se questo Sam esistesse, però magari non avrà il coraggio di venire avanti davanti a 8,000 persone per accettare te nel suo cuore? Ah, you didn't think of that, did you, Lord? Non ci hai pensato, Signore? Non hai pensato a questo? And the Lord said, no, I want you to do it now. Ma il Signore mi ha detto, no, io voglio che tu adesso faccia l'invito. And I actually tried to start preaching. E ho provato a smettere, a fermarmi dal predicare. But I couldn't because I knew I was being disobedient. Ho provato a predicare, ma non potevo, non ci riuscivo perché sapevo che stavo disubbidendo. So I said, forgive me, we need to stop. E quindi ad un certo punto ho detto, perdonatemi, dobbiamo fermarci un attimo. I think Jesus is saying, there is someone here, you don't know him, your friend invited you to this camp, and you said to your friend this afternoon that if we made an invitation for people to come forward this evening to become Christians, you might come forward. Dobbiamo fermarci perché Gesù mi ha detto che c'è qualcuno qui che ti chiami Sam, che non hai accettato Gesù, che un amico ti ha invitato, e questo pomeriggio tu hai detto che se ci fosse stato un invito tu avresti risposto per accettare Gesù. And your name is Sam. E ti chiami Sam. Well, Sam, why don't you come now? Sam, perché non vieni adesso avanti? We will wait for you. Noi ti aspetteremo. And over the next few minutes, I wanted to die. E per i successivi minuti io volevo morire. Nobody moved. Perché nessuno si è mosso. 8,000 pairs of eyes were looking at me. 80,000 paio di occhi mi stavano fissando. And I said, oh Lord, I told you this was a bad idea. E ho detto, Signore, te l'ho detto che non era una buona idea. And I was like, what do I do now? E pensavo, ma adesso cosa faccio? How do I preach after this? Cioè, come faccio a continuare a predicare dopo questo? And then after ages, this one boy stood up. E poi dopo un'eternità questo ragazzo si alza. And people around him started clapping. E le persone attorno a lui hanno incominciato a battere le mani. And he got up and he walked 10 paces and then sat down next to a girl he obviously liked. E lui incomincia a camminare e si avvicina a questa ragazza che, per la quale ovviamente aveva una cotta. And I wanted to kill him. E volevo ucciderlo. And I was like, please God, I don't know what to do. E dicevo, per piacere, Signore, cioè, non so cosa devo fare. And then from near the back, this young man stood up. E poi, in fondo, questo ragazzo si alza. And he started walking to the front. E incomincia a camminare verso, a venire avanti. And he stopped there. E si ferma lì. And when he stopped, I could see he was trembling. E quando si ferma, io posso vedere che sta tremando. His whole body was shaking. Tutto il suo corpo sta tremando. And I said to him, e gli ho detto, are you Sam? Sei tu Sam? He said, yes. E lui mi fa, sì. I said, did you say that to your friend this afternoon? Tu hai detto questa cosa al tuo amico questo pomeriggio? He said, yes. E lui dice, sì. I said, are you ready to give your life to Jesus? E gli ho chiesto, sei pronto a dare la tua vita a Gesù? He said yes. E lui dice sì. In front of 8,000 people. Di fronte a 8,000 persone. We prayed with Sam and he gave his life to Jesus. Abbiamo pregato per Sam e lui ha dato la sua vita a Gesù. And then I watched as he walked back. E poi l'ho osservato mentre ritornava al suo posto. And his friend ran to him and they were hugging each other and crying. E i suoi amici gli sono corsi incontro e hanno incominciato ad abbracciarlo. They told me afterwards it was his best friend who had been praying for him for months. E poi mi hanno detto che era proprio il suo migliore amico che lo abbracciava, che stava pregando per lui da mesi. Sam was struggling with depression and did not know Jesus before. Sam stava combattendo contro la depressione e non conosceva Gesù. And you know, my question to God was this. E sapete, la domanda che io ho posto a Dio è stata questa. God, why can't we do this at the end? Signore, ma perché non potevamo farlo alla fine? Why does it have to be now? Perché dovevamo farlo adesso? Why does it have to be so theatrical? Perché doveva essere così teatrale? You know I have a heart condition. Cioè, lo sai che ho problemi di cuore. I'm Greek, so I exaggerate. Vabbè, sono greco, quindi un po' esagero. And you know the Lord answered me. E sapete, Dio mi ha risposto. When we prayed for Sam and he said amen. Quando noi abbiamo pregato per Sam e lui ha detto amen. 8,000 teenagers spontaneously all stood up and were clapping and cheering the Lord and Sam. 8,000 ragazzi all'amen di Sam si sono alzati e hanno incominciato in maniera spontanea a gioire e a festeggiare l'accaduto. And the Lord said to me, that's why I wanted you to do it now. E il Signore mi ha detto, ecco perché ho voluto che tu lo facessi in quel momento. Because earlier you were rejoicing over 200. Perché prima tu stavi gioendo per quelle 200 persone. And I wanted to show you, I will stop a whole meeting for one Sam. E io ti volevo mostrare che io sono disposto a stoppare un intero incontro per una salvezza. That's a lesson I will never forget. E quella è una lezione che io mai dimenticherò. He loves you as if you were the only one. Lui ti ama come se tu fossi l'unico. He values you in your brokenness. Lui ti valorizza nel tuo essere ferito. He will never ever let go of you. E lui non ti lascerebbe mai e poi mai andare. And it's this knowledge that keeps me going. Ed è questa conoscenza che mi spinge, cioè mi fa andare avanti. I know I'm not anything very special. Io lo so di non essere nulla di speciale. I talk for too long. Parlo assai. I tell terrible jokes. E dico battute che non fanno ridere. I eat too much. Mangio un po' troppo. I tell stories that go on and on and on. E racconto storie che sono lunghissime. But I know. Ma io so. He loves me. Che lui mi ama. And he loves me because he loves me because he loves me. E lui mi ama perché mi ama perché mi ama. And that's my secret. E quello è il mio segreto. It's not that I love him. Non è che io amo lui. I do love him. E certamente è certo che lo amo. But because he first loved me. Ma è perché lui mi ha amato per prima. And when we know that. E quando noi sappiamo, comprendiamo questo. Deep in our being. Profondamente nel cuore. We will take courage. Noi sì che lì prenderemo coraggio. We will want to tell everyone. Noi avremo il desiderio di dirlo a tutti. His love changes us. Perché il suo amore ci cambia. Let's wait on Jesus again. Aspettiamo che Gesù si muova adesso. And Father, in the name of Jesus. E Padre, nel nome di Gesù. We ask once more that you send your Holy Spirit upon us. Ti chiediamo ancora una volta che tu possa mandare il tuo Spirito su di noi. Holy Spirit, would you come and fill your church? Spirito Santo, vieni e riempi la tua chiesa. And Lord, would you bring revelation? E Signore, possa tu portare una rivelazione. Would you bring revelation of the love of the Father? Una rivelazione dell'amore del Padre. Open the eyes of our hearts. Apri gli occhi dei nostri cuori. that we would know. Che noi possiamo sapere. The length and breadth and height and depth of your love. L'altezza, la profondità, la grandezza del tuo amore. Which is beyond knowledge. Che sorpassa ogni conoscenza. Come, Holy Spirit. Vieni, vieni Spirito Santo. Now, I believe he wants to meet with many people tonight. Credo che lui voglia incontrare tante tante persone questa sera. And he loves us whatever our age. Lui ci ama qualunque sia la nostra età. But I think he is saying that right, first of all he wants to meet with the young people. Ma penso che lui mi stia dicendo che per primi, prima di tutto, vuole incontrare i ragazzi questa sera, i più giovani. Okay, if you are 25 years old and under. Se tu sei più, hai 25 anni o meno di 25 anni. Could you come forward now? Puoi venire qui avanti. Everyone 25 years and under, just come now. Tutti quelli dai 25 anni in giù. That's it, don't be embarrassed. Non essere imbarazzato. All right, there's a few of you. That's it. Were you all sitting up there? Eravate seduti tutti lì dietro. Where were you hiding? Ah, era lì che vi stavate nascondendo. That's it, just come. Venite, venite, fatevi spazio più qui. We're going to pray for them. E noi pregheremo per loro. Because some of them struggle to really, really know how much he loves them. Perché alcuni di loro hanno veramente difficoltà nel comprendere quanto Dio li ami. And he wants to fill them. E lui vuole riempirli. Now, you just relax. Adesso semplicemente rilassiamoci. We are going to pray for you. E noi pregheremo per voi. Now we need lots of people to pray. E chiaramente abbiamo bisogno di tante persone che possano pregare. Lots. Tante. Why don't you come? Quindi perché non anyone non venite? Who wants to. Chiunque voglia. Come on, venite if you love avanti. Jesus and breathe oxygen. Sì, se puoi respirare e ami Gesù, puoi venire qui e puoi pregare per questi ragazzi. Come coraggio. Right round to the front. Qui. We're going to do this as family. Quindi faremo questo proprio in quanto famiglia. We're going to do this as community. Lo faremo questo in quanto comunità. Don't start praying yet. Non incominciate già a pregare. We're gonna bless the next generation. Perché noi vogliamo benedire la prossima generazione. Come on, there's loads of wonderful young ladies here that have got no one to pray for them. Ci sono tante ragazze qui bellissime e abbiamo bisogno di voi per pregare. Quindi fatevi spazio anche abbastanza velocemente e raggiungete queste ragazze. Come and stand in front of them, some of you. That's it. Come right qualcuno through. Può, right through. Può stare right davanti. Through. That's it. Come right. Well done. Bene, bene. Well done. And just before we pray. E prima di pregare. Okay. If any of you at the end, you want to get to know a Swede. Se c'è qualcuno di voi che alla fine vuole conoscere lo svedese. Wait. As he walked by, he gave me a little look. Perché mentre stava passando di qui mi ha dato un'occhiata. And he said, please mention it one more time. E ha detto, dai, provaci un'altra volta. But let's forget him now. Ma adesso non pensiamo a lui. We're gonna pray. Ma incominceremo a pregare. And bless them in Jesus' name. E a benedirli nel nome di Gesù. Now, if you're being prayed for, it might help you to close your eyes, but you don't have to. Ok, se qualcuno sta pregando per te, forse chiudere gli occhi ti può essere d'aiuto, ma non devi necessariamente. Solo ricevi questa benedizione. Holy Spirit, fall on them. Spirito Santo, scendi su di loro. Come, Spirit of God. Vieni, Spirito di Dio. Anoint them. E ungili. Anoint them. Ungili. Fill them with your love. E riempili del tuo amore. Fill them with your grace. Riempili della tua grazia. And Lord, give them a passion. E Signore, dai loro la passione. Show them your passion for them. Mostrali la tua passione, la passione che tu hai per loro. And Lord, would you release in them by your Holy Spirit a passion for Jesus? E ti preghiamo, Signore, che tu possa dar loro una passione per Gesù. Just bless them, Lord. E benedicili, Signore. Bless them, Lord. Benedicili. Bless them, Lord. Benedicili. Thank you, Lord Jesus. Grazie, Signore. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Grazie, Gesù. There's a guy here in a white top. C'è un ragazzo con la maglia bianca. That's you. Christian. Yeah. What's your first name? Come ti chiami? Huh? Christian. Okay, just keep receiving. Continua a ricevere, Christian. The Lord loves you. Il Signore ti ama. And he's put leadership on you. E lui ha messo delle capacità di leadership su di te. You're someone that others look to. E tu sei qualcuno che gli altri prendono d'esempio. It's a natural thing. È una cosa che ti viene naturale. But it's also a spiritual thing. Ma è anche un qualcosa di spirituale. And you've been wondering, Lord, what do you have for me? E tu ti sei chiesto, Signore, ma tu cosa hai in serbo per and me? And he's calling you. E lui he's ti sta calling chiamando. You. To pay the price of being a leader. Ti sta chiamando a pagare il prezzo di essere un leader. And he's calling you. He's going to send you places. E lui ti chiamerà e ti invierà in posti. And he's going to give you gifts. E ti darà dei doni. He's going to anoint you. Ti ungerà. And there's a new season coming for you. E c'è una nuova stagione pronta per te. And he's going to give you words. E ti darà delle parole. But he's also going to give you songs. Ma anche delle canzoni. And he's going to use you to change people's lives. E lui ti si userà di te per cambiare la vita delle persone. And Lord, I pray for boldness. E quindi Gesù ti prego per coraggio. Not only for him, but for all of these. Non solo per lui, ma per tutti questi ragazzi. For they are all special to you. Perché loro sono tutti speciali ai tuoi occhi. Lord, fill them. E, Signore, riempili. Fill them with your love. Riempili con il tuo amore. Fill them with your goodness. Riempili con la tua bontà. More of you, Spirit of God. Di più di te, Spirito. May they be a fire that lights in them. Che ci possa essere un fuoco che si accende in loro. That will actually lead the church. Che può e che potrà guidare la Chiesa. Release visions and dreams. Dai visioni e sogni. Release visions and dreams. Dai Jesus. Visioni e sogni, Gesù. And for those who feel they're not good enough. E per coloro che pensano di non essere buoni abbastanza. I thank you that you speak life to them. Io ti ringrazio perché tu parli vita in loro. And you make them good enough. E tu li rendi buoni abbastanza. Thank you, Lord. Grazie, Signore. Thank you, Lord. More grazie. Of you, Jesus. More of you. Di più di te, more Gesù. Of you. More of you. And I think, sorry, as we keep praying, okay, keep noi, receiving. Voi continuate a pregare e a ricevere. Would you mind? I know this sounds crazy. I don't even know why, but I think she's like, those of you that are over 65, could you come forward and just bless them? Just come forward. Questa è un po' strana come cosa, ma io vorrei chiedere a tutti coloro che sono più grandi di 65 anni, che hanno di più di 65 anni, venite qui avanti e pregate per loro. They need you. Perché Loro hanno bisogno di voi. They need their spiritual grandparents. Hanno bisogno dei nonni spirituali. Would you mind coming now? Quindi, se hai più di 65 anni, vieni avanti. That's it. If there's others, if you're over 65, just come. Se ce ne sono di più. And let's make space for them. Let's make space for them. Facciamo spazio per chi si sta aggiungendo per pregare. And God is going to use you to bless them. E Dio si userà di voi per benedirli mentre pregate. Team, make space for them, just to come. Fate spazio per loro. Venite, fatevi spazio. Just come. Venite, pregate per i ragazzi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We pray your blessing. Grazie, Signore. Noi preghiamo la tua benedizione. We pray your blessing. Preghiamo la tua benedizione. Thank you, Jesus. Grazie, Signore. Thank you, Jesus. Grazie, Gesù. Thank you, Lord Jesus. We love you, Lord. Ti amiamo, Signore. We love you, Lord. That's it. We love you, Lord Jesus. Ti amiamo, Signore. We love you, Lord. As we pray for these and we take time. E noi prenderemo del tempo per pregare per loro. The more we wait, the more he does. Perché più aspettiamo, più Gesù opera. Just wait for a moment. Continuiamo ad aspettare. Forgive me if this is wrong. Perdonatemi se mi sto sbagliando. But I think there is somebody here. Ma penso che ci sia qualcuno qui. When you were young. E quando tu eri più giovane? A while ago. Parecchio tempo fa. You did something. Hai fatto qualcosa. That was not good. Che non era buono. You made a mistake. Hai fatto un errore. You committed a sin. Sì, hai commesso un peccato. And while you know God has forgiven you. E nonostante tu sappia che Dio ti ha perdonato, it's like you still haven't forgiven yourself. È come se tu non avessi ancora perdonato te stesso. And it gets in the way of God being able to use you. E questa cosa si mette in mezzo tra te e Dio che si vuole usare di te. Because you keep saying, how could God use me when I did that? Perché tu continui a dire, ma come Dio si può usare di me se io ho fatto quello che ho fatto? And I think you were thinking about this just a few minutes ago. E penso che tu stessi pensando a questo fatto giusto qualche minuto fa. Now it may be very difficult for you to say in front of everyone. Ora può essere difficile per te dire che sei tu davanti a tutti. But I believe Jesus wants to break the power of that. Ma io credo che Dio voglia cambiare questo. Because he has more for you to do. Perché lui ha di più in serbo per te. No one's going to ask you questions. Nessuno ti farà alcuna domanda. Are you here? Sei qui. Be brave if that's you. Sii coraggioso, se sei tu, alza la tua mano. Okay. I thought it might be difficult in front of everybody. Sapevo che insomma sarebbe stato difficile farlo davanti a tutti. Please come to me or one of the team. Però dopo vieni da me o a qualcuno del team. Before the end of tonight. Prima della fine di questo incontro. He wants to set you free. Perché lui ti vuole liberare da questo pensiero. He wants to set you free. Lui vuole liberarti. Thank you, Lord. Now I suspect that the band are mostly at the front here, but could one or two of the band come up? Oh, they're there. Se il team può venire. Come, that's it. In a little while we're going to begin just to worship. Quindi tra un po' incominceremo ad adorare. But we're just going to wait a little bit longer. Ma vogliamo aspettare un tantino in più. I'm going to pray some more. E vogliamo continuare a pregare. We love you, Lord. Ti amiamo, Gesù. We love you, Lord. Ti amiamo, Signore. Thank you, Lord. Grazie, Signore. Cominciamo ad adorare. Non ci alziamo insieme e non incominciamo ad adorare, così che non siamo solo spettatori ma facitori. Quindi alza le tue braccia al cielo, apri la tua bocca e incomincia a confessare queste parole dell'amore che Dio ha per te, di quanto è grande il suo amore. Coraggio, Chiesa, adoriamo insieme.